Imprese e Startup, insieme per innovare, è un'iniziativa nata per facilitare l'incontro tra le startup innovative operanti su tutto il territorio nazionale e il mondo industriale italiano. Sostenuto da InnoVab, azienda speciale per l'innovazione della Camera di Commercio di Milano, il progetto si sviluppa online e offline. Online con il social network aperto a startup e imprese, offline con eventi, appositamente organizzati per creare momenti di incontro tra startup e imprese che desiderano conoscere da vicino le idee, i progetti e le proposte degli innovatori. Sul sito www.startupbusiness.it si iscrivono startup e imprese. Le prime possono presentare il proprio progetto innovativo. Le seconde indicano i settori e le tipologie di innovazione delle quali sono alla ricerca per accrescere la loro competitività. Attraverso il network è quindi possibile per gli utenti, startup e imprese, confrontarsi e avviare dei primi contatti, scambiando eventuali proposte di interesse. Gli appuntamenti offline, dei quali sarà data puntualmente notizia nel calendario del social network, saranno l'occasione per approfondire e condividere le informazioni già pubblicate sul sito, per confermare il reciproco interesse e gettare le basi di un'eventuale collaborazione. I business match hanno lo scopo di creare situazioni vincenti sia per la startup che per le imprese, perché consentono alle prime di attivare opportunità di business, trovare partner per proporsi al mercato in modo più efficace, dare vita a partnership che possono prevedere, oltre alla collaborazione industriale, anche sodalizi di carattere finanziario attraverso partecipazioni. Per le imprese, i vantaggi si concretizzano nell'opportunità di incontrare le innovazioni capaci di aiutarle a crescere e a evolvere per essere maggiormente competitive. All'interno del network Imprese Startup Insieme per Innovare trovano spazio anche altri importanti attori dell'ecosistema innovazione, venture capitalist, business angel, incubatori, enti pubblici. Questi soggetti, portatori di know-how specifici, competenze manageriali, sensibilità all'innovazione e senso del business, costituiscono per le startup un'interfaccia importante con la quale confrontarsi e sviluppare relazioni sinergiche. Imprese e Startup Insieme per Innovare facilita e accelera l'incontro tra il mondo delle imprese nascenti e quello delle imprese che già rappresentano la spina dorsale dell'economia del Paese. Solo attraverso questo incontro si può fare in modo che l'innovazione diventi nuovo business e nuova economia e che le grandi, medie e piccole imprese possano utilizzare questa innovazione per crescere. È quindi un'importante opportunità per le startup che desiderano proporsi al mondo industriale, così come per le imprese consapevoli dell'importanza dell'innovazione, mosse dal desiderio di cercare e trovare nuovi spunti, nuove ispirazioni per il loro business. Accendere questa relazione, fondamentale per lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione e dell'economia del Paese, è la missione di questo progetto, che nasce e cresce con l'attivo contributo e l'impegno di imprese e imprenditori che vedono nell'innovazione il terreno sul quale giocare le nuove sfide.